esattamente 100.000 lire. Ti ho detto, te fai dare la quella grande bagazza di mamma tua, capito? Quella grande bagazza di mamma tua, perché se tua madre non era bagazza, non stava a rompere il tuo coglione a baracchino, capito? E lo so che sei tu, Danilo Sanna, hai capito, brutto froscio drogato? Froscio e drogato! Perché sveglio tua madre, attacca, prova ad attaccarlo, froscio. Perché domani ti faccio squillare il telefono, vabbè, poi se vieni qua a casa mia mi fai un cazzo, capito, froscio, perché ci sono i carabinieri. Coglioni! Coglioni! Per telefonare pure a quella grande bagasse mamma tua, perché stanotte te lo faccio squillare il telefono alle 4, hai capito, te lo faccio squillare. E nel sveglio quella grande bagasse mamma tua! Drogato! Drogato! Stata fine male, una brutta.